Roma noi, troppo se va a sapere. Perché noi quando stiamo andiamo tempo passa presto, a luna esce il figlio vostro, lo so. Perché sto tempo per dispiace, mentre sto aspettando ferma sempre tutto l'ora, e non passa. E non mi basta mai, tu non mi basta mai, nemmeno se tu nasci una decina volte a nascere. Che posso cielo senza stelle, mare senza ostale, Dio senza di te, di bello tu che fosse. Tu non mi basta mai nemmeno.